originale, gli ho cambiato il capo ed è un bombo. Erano i fili giusti, erano mattanti. Sì, qualche filo di sera, li ho tagliati, quelli che non ho utilizzato. Infatti. Perché c'era quello dell'amplificazione, eccetera, eccetera, capito? Dei volumi. Ma comunque è un bel filo questo. A voi, anche questo qui che sto usando è un filo di lusso. Ma anche questo che c'è lì, perché è morbido, è spiccato, ed è lungo, oltretutto. Anche questo qua, di questo apparato che sto usando adesso, via dalla fabbrica, è lungo e morbido. Quello della 48 non vuole tutto quel filo steso, dico io. Perché oltre a essere due, anche corta, tocca tirare. Tetta, un brutto. Sono persino una goccia d'acqua adesso. Infatti. È per quello che ho comprato il microfono amplificato, perché ti credi l'abbia comprato? Perché quello c'è il filo morbido e pesce più forte. Infatti. Bisognerebbe cambiarlo di nuovo. E provarlo. Sono quanti che i cavi del microfono, se li abbia fusati, io devo chiedere a vedere. Non lo so. Eppure chiedo già. E chiedi? Se me lo cambia anche a me. Infatti, se ce li ha morbidi e belli come quelli che piacciono a noi. Perché quelli lì anche se li scaldi ho provato a scaldarli con il riscaldamento della macchina, no? Si fanno molli molli. Poi come si raffreddano diventano dopo tutto. Ho provato a tirare, a fare, nulla di fatto. Sì, a me lo dici, come si raffreddano attorno alla peggio di prima. Da lì, pari di muscoli. Comunque prova a chiedere a Fusaro, sabato. Tore. Ma va agricola, che fine fa? Fa negri, sì, eh? E sono sempre a Usilo questo ragazzo, mi sa che si è fatto la donna lì. Veramente, a me pure sa che questo, mi sa proprio che questo abbia fatto qualche inghippo, che si abbia la donna lì, osilesa. Ma ne conosci gente a Usilo? Io sì, c'è già ne bravo due lì. No, io conosco femmine, ha avuto la ragazza. Ebbene, quando io faccio la politica oggi lo vedo per i femmini. Senta, ma lì c'è quello che c'è, una bella ragazza, era alta, con gli occhi chiari. Ma scusa. Cava. Aspetta. Poi oggi lo c'è anche l'amico di Marco. Amico di Marco chi? Di Marcolino, il pastore Serafina. Ah, è vero. Ma tu sei il pastore Serafino, le pecore dove le lasciate? Bella, subito interrogandi. Poi vedi, eh? Ah, mi nomi il masciotto. E vedi da me, e siccome che sempre vedi da me. Sempre. Sente la nostalgia. Perché lui è un masciotto, vero? No, sei un trollio. Cosa adesso? Ok, la faccini tu. Ma non vi sembra perché ci vuole cuffie. Così almeno non si adira. Sì, ma io dico che è un masciotto, non gli sta facendo niente di grave, no? E ma lui perde il tuo vaccinito. Vaccini tu. E poi quando ti risponde male ti lamenti. E quando non mi risponde male io vado e prendo il gatto, il computer. E ieri si è fatto accarezzare Tizi e non mi ha soffiato. E perché ti deve soffiare? Ti soffia se magari vi fai male, cosa? No, già la stavo accarezzando e già era tranquillo. No, già mi soffiava già, puttinosa. invece Antonio gli ha messo il piede sulla zampa e l'ha buffato. Ehi, ero grido. Era stanziato, dove è passato, dove è passato il riscaldamento, io. E Antonio, come è passato la schiacciatanza, mi ha fatto puff. Subito la buffata, dice, catta. C'è un gatto alla guardia, non glielo potevi. Io devo c'è che c'è stato un gitto a buffonetti, ho detto prova a entrare, c'è il gatto alla guardia, vai, vai, c'è il gatto alla guardia. Io mi sono spostato, non mi sono fatto vedere, ha visto Edoardo, come stavi tu? Sono chiuso subito la porta, chiuso la bandiera, non è una iatta. Ah, allora io mi grida, mi la iatta alla guardia. Sì, perché non l'ha vista a me, come l'ha vista la faccia sconosciuta, capito? Guassano di subito la iatta, si è entrato dove deve stare la iatta. Allucinante. E Boga Mandroni mi è sempre cucato dove passa la tubazione del riscaldamento. Fa. C'è che i verugali in fili, c'è che sapete che è matto, tagliato, tutti nulli via. Ehi, che sta meglio di loro? Dormono, bevono, mangiano, ma non travagliano. E allora, trattata come una regina e tagliata. Fatto l'acqua, l'ha fatta e pulita tutti giù. E allora, le cose migliori a lì. Niente, adesso non, ma prima li mette quel buon talco addosso. Lo mette quel buon talco e poi faceva il pelo morbido, morbido. Allora, quando la prendevi in bacio era tutta profumata, tutti mi dicevano che bel profumo che c'ha. Ci vuole diventare una signorina. Pierpa. Pierpaolo. Sei con me. Io. No, Pierpaolo, sei con me. Mi dice il microfono normale, cavolo. Mi sta rispettando. Ma la batteria sarà? Il microfono normale c'è la batteria. Ti sta difettando il microfono normale? No. Non ha mai difettato quel microfono. Ma dove c'è? Come lo tocco lì? Ma già funziona, non è che... ma già l'ho scoperto cosa è. Ma questo non è normale. Lo so. Questo che ti sta rifiutando non è normale. Aspetti. Anche che ti regali il pesce. Davvero. L'uccello. Casino, sto cazzo di microfono. Oh, yeah. Ma te non l'ha capito che non sono i microfoni, ma è... praticamente c'è il baracchino vicino all'antenna, l'antenna che ti fa rientro, è normale che... L'abbiamo provato in macchina mia, lo stesso microfono che lui faceva difetto, non c'è ancora nessun difetto. Dopo non impianto fatto bene già, sennò un casino, non deve avere stazionari. Deve essere a posto, sennò quel tipo di microfono non va bene. No, questo è normale, lo vedi, guarda cosa fa. E cosa fa? Quello era portante, è stata sempre rumorosa. Ma non è quello, lui non li fa nulla. Oh, verde. No. Allora. Verde, verde non ne ho io. Dico, la forma del 48 non è verde. Non era il 48, è un microfono che gli ho dato io, quello lì. Che ci avevo a casa, che era come. Beh, non ne fa difetto, non parla. No, adesso l'ho cambiato. Non ti piace la GVPC, non ti piace la Tech, ma ti piace l'Ecco. Se ti piace l'Ecco ti conviene fare una cosa. Comprati questo apparecchio. Antonio bisognerà, io ho il pesce o l'uccello, Gianni c'ha il pesce, io c'ho l'uccello. Ehi. 80. speciale, 95 la manta va 5, 99 la manta va turbo. Hai visto che ho ragione? Mi dirà subito una tagliava. Chiamano un po' di vino, io devo stare per tirare. Ti recupera il pane, io compro la mortadella. Ti faccio fare più pane, ma ancora lo useranno mangi. Se mi dirà manto fa uno, tanto non davvero mi attesi. Ma meglio, la manto fa uno è la migliore. Non è vero, la manto fa 5. Vai, cosa la manto fa 5, è troppo rumorosa la manto fa 5. Anzi, mi sono sbagliato, la turbo. La turbo ce l'ho già, ce la devo buttare. Ma proprio la turbo c'è una diaria che si rompe, se non rida. Comunque con la mantova 5 adesso la fanno più come prima, e se arrugginisce tutto non attacca il piede, è un casino. E gli arrivo solo un trattamento qui. Stavo intanto arrugginito. Bisognerebbe tutta vulcanizzarlo. Dal PL a dove attacca, tutto quanto attorno, in modo che non passi acqua. Abbiamo tutti la mantova 5 già, giusto? Luigi Vulcano c'ha la turbo, poi tu c'ha la 5, io c'ho la 5, Claudio c'ha la 5, Franco la 5, Vittorio c'ha la 5, mi sembra, la 1, boh. Poi che c'è la buppa? Pomponia c'ha la Grand Prix. La Grand Prix? La Grand Prix. Grand Prix. Come si Grand Prix? Grand Prix è... sono le corse. Quello di Monte Carlo è il Grand Prix. Hai detto Alessandro, dici Grand Prix. Alessandro. Ma che c'è una tuggia a pescare? Vorrei sapere se ha pescato. E altro non c'era niente. No, dove è andato? Comunque già va che se la organizziamo, andiamo. Ma a me mi piace fare la notte, lì la notte si becca. La mattina non penso, e poi si trovano la mattina che sono a capo, invece la notte non ti trovo nessuno. Più che le macchine di cui non passano, militari, però non ti vedono perché sei dietro. Ciao, ti sposta il microfono, cacchio. La facciamo una notte, non c'è problema, non ho più problemi. Mi sa che se sabato fa bel tempo, se non ci impegni vado, non lo so, però adesso bisogna vedere cosa decide la principessa. Aspetta, la notte c'è, come, spiegati. La notte, io esco alle 7:30, dalle 7:30 in poi si pesca. Poi se vedo che si pesca mi trattengo, se vedo che non si pesca più liberi mi nanno. Ma se no, perché la te alle 2, 3 del mattino, alle 4, così? Luca, io ho fatto anche tutta la notte sino alle 10 del mattino. C'è problema per questo. Non problema. Può che fare, proviamo, perché no, non ve ne è problema. Però se vuoi durare un rubescio, capito, ce la pesce, ho pescato bene e mi sono trattenuto, tanto è vero che mia moglie mi ha guidato quando sono tornato, perché beh, tornavi sempre alle 7, invece sei tornato alle 10, ti chiamavo e non rispondevi al telefonino, invece il telefonino ce l'avevo in macchina. Cioè, come fate la faccia a voi? Dalle 9 e mezza di sera, 9, 9 e mezza, fino all'indomani alle 2, alle 3, mettevamo a casa. No, guarda, è l'ora che io sto a lavorare, la migliore. Dalle 7 e mezza alle 8 e mezza mangia che cosa amara. E poi cala un po', si ferma un po', e poi ricomincia. A notte tarda, verso mezzanotte e mezza, così. Io. Allora che mio fratello le prendeva sempre, lui le prendeva come? Al tocco. Al tocco te lo devi diventare incinato. con la gamba in mano, ma ti tocca giù. Ah, seconda, toccata, la devi cercare. Io so, ma dipende sempre, se viene o no. Se non devi stare giù lì così con la gamba in mano, ma non mi piace. Ecco qua, sono entrato nella base. E beh, cos'era? Ah, guarda, più fine mi sono messo le cuffie. Mamma mia, va giù una puttana, guarda. Tu mi dovrai con le cuffie a fondi. Vabbè, però deve funzionare diversamente. Ma tu, però spiegatemi nei modi cos'è. Come ti dici, tu lo metti dentro, il tuo apparato lo metti nell'antenna di mia o cose del genere, non lo fa. Oh, ma l'ho messo anche da babbo e non lo fa, non fa niente. E appunto, c'è l'antenna troppo vicina, capito? Mi sa e non lo fa. Deve essere come c'è l'antenna frontale, o per qua, devi fare ritorno, rientro. Ma se molti male perché non lo fa? E che ne sai, è un tipo diverso di apparato. Ma fa mettere l'ala. Che fa? Che tu male. Vabbè, allora c'è il mare, vabbè. Già l'hai visto, sì, il microfono di Antonio, l'ho provato in macchina. E funziona, va bene. Sì, vabbè, è lui che non riesce a farlo pilotare, va. No, non è quello lì, è questione che non è fatto bene l'impianto, c'è poco da fare, tutto volante per quando sei meglio di me. Quando gli impianti sono fatti così, era bene in medio, non rende come deve rendere. Quell'antenna lì non c'ha sfogo, e ribatte le onde all'interno. Il mio bene sta andando, allora cosa c'entra? Tutto va bene. Perché forse ha trovato una posizione migliore, magari per farlo uscire. Capo, l'ho anche allontanata l'antenna, vedi che il segnale è anche diverso dalle altre volte. Non so, però adesso sta uscendo bene per lì. Capo, l'ho allontanata da dove era, però devo capire che cosa è, a tutti i costi. Il piano piano si capirà. La dura la vince. Non è a dire che ce l'ho vicina e cosa, assolutamente no. È lontana l'antenna, ma un bel lontana. Boh, non so cosa dirti a te. Non so che cosa dirti. Le stazionarie. Sembra che vadano bene. 5. 5 di stazionaria c'ha, 5. Capito. Figlia, c'ha 5 stazionari. Quell'antenna c'ha 5 stazionari. Vai, tu puoi dire che tu fai cadere un muso antenna. No, va bene. Deve essere distante almeno 2 metri. No, va bene. Siamo il comprendi, comprendi, sennò fai con tutti i piatti. Ma va, proprio da che cosa è la metà ancora più distante. Tempo di volta di doggio. Non mi farà niente, no. Se va buono come te la dei duni non mi farà niente. C'ha distanze di 2 metri, da muro ci vuole metti tanti. E li mettiamo anche quelli. E lo che fa? Ma non le dite. Anzi, se mi sono sbagliato, c'ha 10 stazionari quell'antenna. Ma non lo capita, ma non proprio no. Ci metto anche un capo da 60 centimetri su quell'antenna. Non ha stazionaria quell'antenna, non ne ha. Allora, dalla casa non ne ha, poi secondo la posizione può cambiare. Da retta umana. Niente, sottoterra la metti quell'antenna, non ha indichi biasi, capposizione, voi tu, quell'antenna è priva di stazionaria, non scarica massa, cazzo, cioè addirittura l'abbia compreso, non lo so come, siete con questa esistenza che non lo volete capire, non cambiate. Funziona, il suo funzionamento migliore è con alcuni metri, con alcune misure adeguate che ti danno loro, e ha il miglior funzionamento. Fuori da quelle misure funziona lo stesso, manca un centimetro di cavo, l'antenna non gli serve niente, è privo di massa. È inutile che ho continuato a dire la massa. Cazzo, non ha di massa, chissà, non mette stazionarie. E qua sarà così, però ti posso dire, diciamo l'antenna è impiccato, diciamo l'antenna. Sarà impiccato, cosa vuoi ti dica, sarà quello che sarà, non lo so, sapete l'argomento con me, quello diciamo pure il cubo, però è così, non c'è niente da fare, quell'antenna, per dirtelo proprio, può funzionare anche sott'acqua, perché è assolutamente impermeabile. Non so, comunque è strano, Anzi, io, per esempio, la mia, ho fatto la prova ieri, attaccato, allora se metto il rosso, metto adesso, 1 e 2, attaccato 1 e 2, non va oltre, però, siccome che la mia non è tratta giusta, si potrebbe fare qualcosa, portarla a 1 e 1, ma comunque non me ne frega niente, non è che sia che 1 e 2 mi crea problemi, però se la porta 1 e 1 è meglio, perché con attacchi fare di salga 1 e 2 va bene. Vabbè, comunque per qua, dopo per me se un'antenna non va bene, perché riflette nel muro. Sarà pure che rifletta nel muro, no, avete il dubbio. La mia è così lo stesso, e non lo fa. C'è qualche cosa che sicuramente io l'ho già capito. All'altra parte, visto, c'è quell'antenna. C'ha due amplificatori, sicuramente all'antenna televisiva che c'è da quella da fianco a noi, c'ha due amplificatori che sono strapotenti su quell'antenna. Non ne ha uno, ne ha due. Io sono convinto che gli dà fastidio quell'antenna lì, perché quell'antenna lì la prende, la porta dalla parte mia e non fa più niente. Stranamente è così. Da quella parte gli danno ma un sacco di casino, però certi ore che magari sono trattenne a che cosa, non so, trasmettono o ricevono da questo, e hanno messo queste due antenne amplificate. E sicuramente gli ha disturbo qualche cosa lì, ma sempre, ogni giorno, la prende, la trasmette da quella parte, non fa più niente. Però non è che voglio dire, però è sempre la stessa storia, la massa con l'antenna sta dando sta. Cazzo, se dì, non è che lo sto dicendo io, c'è la schiena tecnica, basta andare a legge e basta. Allora il massa non è, poi che rifletta sul muro che cosa, la mia è uguale, anzi forse il muro peggio. E non è facile, so solamente che c'ha due amplificatori lì e gli stanno creando problemi, perché sinceramente, con tutta sincerità, sta dando problemi anche alla mia antenna televisiva, sta dando molto adesso, in questi giorni, ha peggiorato pure. Allora spiegami una cosa c'entra la massa con le stazionarie? Le stazionarie sono onde che tornano indietro, la massa cosa c'entra? Tu chiamano con la massa, ti dà stazionario lo stesso, se non c'hai massa ti dà stazionario. Che tu lo vuoi capire o no, quell'antenna, tu puoi pigliarlo, attaccarlo, un rosmetro, da 2 milioni di euro. Quell'antenna non riuscirai mai a rosmetrarla, perché è così, è priva di piano di massa ed è assolutamente irrosmetrabile. Io non ti sto dicendo che si possa rosmetrare, e quello non te l'ho detto. Ti ho detto che può acquistare stazionari, dalla casa te la danno uno e uno di stazionari, secondo come la piatti, e io te lo posso dimostrare, che tutte le antenne, secondo come le piatti, aumentano e diminuiscono di stazionari, perché questo qui ce l'ho proprio come esperienza. In 35 anni ne ho piazzato di antenne, non è una sola. Ti dimostro che tu, secondo come la piatti, esci meglio o peggio, e che cosa vuol dire quello? Uscire meglio o peggio non significa che abbia a stazionare l'antenna. Se ti gioco di zene la puoi piazzare pure sottoterra, non entra niente, lui piglia sottoterra, ma stazionaria non è da. Non è un'antenna che ha stazionari, cioè sei priva di stazionarie proprio, tu la vuoi piazzare quanti vuoi, ma non sono stazionarie. Non so più ma come ti piegarlo. Voi siete abituati, alle antenne che vanno stazionare, e da ieri non ve ne andava nessuno. Questa è un'antenna che invece è stata costruita appositamente per non dare stazionare, appositamente così. Non date stazionare, ma date mille problemi. Fabula. La pesce così e basta. Andare, Natalino, riprendi. E lui la pensa così, lasciagliela pensare così. Io sono sicuro che il dottor non si frequenta, glielo va perché è troppo attaccato al muro. Io non la penso così, c'è una scheda tecnica, ma sì che ce l'hanno fatta la cosa, non è che erano degli imbecilli, no, e un messo non erano imbecilli, ce l'hanno fatta, hanno fatto anche una scheda tecnica di come funziona questa antenna, non erano imbecilli Natali, non è che fa cosa verso i russi. Ma dice di non venire a casa, e vedi alla casa, farati la magazzina, va pure la e taglia la mola, ma tutto per fare di tagliare a mola, boh. Perché devo tagliare a mola? Perché non è che lo so quello, lo pensi tu, non è cosa che so pensi di io. Io non penso niente, se io non leggo una scheda tecnica, non so niente, salvo dico allora sarà così, perché sono totalmente ignorante. Ma se sto parlando è perché ho letto la scheda tecnica dove mi dice le caratteristiche di questa antenna. Che cosa fa e perché è priva di massa, perché non ha rosmetria, perché non deve essere rosmetrata e perché non dà stazionarie. Perché è un dipolo verticale, lo posso costruire pure io. Ti dirò di più, quell'antenna, a differenza di tutte le antenne, dentro c'ha i filamenti in fibra di vetro. Vabbè. Adesso ne costruisco una io. Oh, ecco, fammene una tu. E voglio, però, cioè, si erano smetti a cazzo, domani a mandare. Si riesce a andare, compare c'è la Grand Prix, voglio vedere. Sì, compare c'è la Grand Prix, che andiamo a Monte Carlo e ti raggurrimo. Così ti vuoi che fai, non solo nel tuo parco, ma che parte di attorno. E cosa mi interessa? Così almeno la posso attaccare il rosmetro. E se non ce l'hai, devi ancora rifare questo rosmetro. Tutto prego, la cosa è pagare 300 euro. Ah va? E abbigliati la mantova già che ci sei. No, mantova non ne prendo. Si è trovato un'altra cappuccia da buco. E anche non la stessa cosa. E le dirà buono. Mi faccio vedere che vi faccio parlare col muro. Vai e mangiati un brodino di mammo. Ah, ma tutto sommato a me cosa mi interessa a me? Mi piglio la quest'antenna, torna dalla moto, da Gimbo che è moto, allora provvisione la Gimbo è andata la macchina, da buoni occhi e sono a pulso. Quella è stazionaria, uno e uno. C'è la stazionaria 1 e 1. Beh, è per forza, cazzo, l'hai pagata 200 euro quell'antenna, io lo so se non è stazionaria. Se no non è che mi voglia assai, no, andarci a salire l'antenna a Gianni, nella macchina, la piazza 9. Cosa di green, noi? E sono di per comprarmene una nuova, non c'è problema. E che secondo te se hai estratto l'antenna te la piglio nuova? Mi, adesso stavo cercando di offendermi. No, io, per carità, me la guarderei bene. Però rimango sempre sul mio parere. Anche se tu continui, io rimango sempre sul mio parere, che un'antenna secondo dove la metti cambia di stazionare. Anche se quella lì è rosmentrata. Insisto che è così. Sì, che va bene. La domani la mia non la vedi più, va. Non è per quello, per farla non ascolti consigli, scusami. Ti sto dando un consiglio. non te l'ho detto solo io, non te l'ha detto parecchia gente, con tanta di esperienza, Natalino ha costruito antenne, non so se mi spiego, ne ha costruito parecchie, non una sola, qualche cosa ne saprà, no? Cosa vuol dire che hai? Così io leggo e così dico, poi se non è colpa, la colpa non è la mia, se l'antenna è stata costruita così io non so cosa dirvi, però la scheda tecnica dice che non è assolutamente né rosmettabile né niente, non esce fuori rosmetria, non è possibile tutto ciò. E allora non so cosa dirvi, poi se per te esce fuori rosmetria vuol dire che saremo sicuro, posto. Però le caratteristiche tecniche non le ho inventate io, se me le avessi inventate io avessi avuto più ragione, così è e così dico, ma voi non so neanche più che cosa dire, va. Io qua, per dire, la mantova, cioè, a seconda dove la metti ti dà, e a seconda come metti il cavo e tutto quanto ti dà stazionario. 1,2, 1,3, 1,1, 0 di stazionario, secondo come la regola e come la posizione. E così su tutte le altre antenne. Te le danno lo smetrate, loro dicono che sono smetrate. Sai quante volte io ho preso antenne per la macchina, c'è scritto che non c'è bisogno di lo smetrare, poi le piazzi e messe nel tuo programma di più, cambia totalmente. Non lo metto in dubbio, ma sono antenne da lo smetrare però. No, c'è scritto che sono già tarate, dalla casa c'è scritto che sono già tarate le antenne, che non c'è bisogno di smettere, tu li piatti in grondina per dire invece che mettere a centro capota e ti danno un valore diverso. Eia, ma stiamo parlando di una diversa cosa di antenne. Vabbè, cosa c'è che è un'antenna magica? Non ne conosco il tipo di antenne così, perlomeno. Tutte quelle che ho avuto, il problema, questo problema l'ho sempre risolto anche con la boomerang, con tanti altri tipi di antenne. Cioè a seconda come la posizionavi ti dava 1,1, a seconda come la posizionavi ti aumentava la stazione anche a 1,5 addirittura. Poi che sia quella lì l'unica antenna che lo faccio. Però voglio appurarlo, lo appuriamo, con lo smetto. Ecco Gianni, l'unica antenna che non vuole rosmettrata, che proprio non ha bisogno di massa, sai qual è? Quella marina, e boh. E chi dica cos'è? No, non è marina, che quelle marine sono a tre volte più lunghe della 27 parlo, però marina da attaccare in barca, quelle bianche. Quelle sono antenne con i contraccazzi, perché ce l'avevo anch'io quella lì, e quella realmente la massa non ce n'era e si fa lo stesso. Allora questa è un'antenna da base, da camion e da barca. Quella non si dice, però la massa non c'entra niente con la stazione, dipende da come la piazza. Perché quella che se tu l'allontani di un metro dal muro cambia totalmente tutto. Vabbè, va. Domani non ce l'ho più, mi sposto il fatto. Una scena di Lucas, no, non è Biglia ragione, no. È tosto, mi. Favoletta brutta. Sì, però dopo tutto questo discorso, il problema è Romeo, non è detto. Ma tu metti inclinata, non la puoi mettere appena più inclinata invece di metterla dritta. In modo da spostarla un po' dal muro. Sì, vabbè, domani provo a fare un po' di tutto, a vedere, magari appena se ne inclinata. E vedrà che risolvi i problemi. Perché la massa non c'entra niente. Allora, notari, prima di avere quell'antenna lui ce n'aveva un'altra. Lui in quella posizione ha quei problemi, perché noi se non va bene i driuri, di stazionari e di cose, è tutto un discorso in vano. Lui anche quando c'aveva l'altra antenna, prendeva quell'antenna, la portava da questa parte, finiti i problemi, la portava da quella parte là, perché se ne andava da quella parte là, perché lui dorme da quella parte, la riportava là. Lui aveva finito di parlare e ha detto ma certi momenti, ti sto dicendo, certi momenti no, certi momenti sì, perché quando c'hanno questo cavolo di cosa acceso, di questa antenna che non so cosa mai raggiungere, un ricevitore che non so un particolare quale, ma gli due antenne e c'hanno un grosso, sono il grosso qui, c'è un amplificatore grosso d'antenna, quando attaccano questa cosa che stanno vedendo, anzi da problemi, ti sto dicendo, da problemi, anche sta andando, da quando hanno messo questo coso, sta dando problemi alla nostra antenna televisiva. Infatti se non me la smetto, me lo faccio smettere in diversa maniera, anche da oltre pomeriggio alla RAI, soprattutto a chi mi ha dato la video, al canale RAI, soprattutto al primo. Il problema lui non ce l'ha da qui, c'ha quell'antenna, perché io non ne ho, e lui ce l'ha. Ce l'ha, ce l'aveva anche da prima con l'altra antenna, era sempre così, sempre se si chiamava le ciambasche, fa vedava la ciambasche, la bacia della cugina nell'altra camera, parlava da quella camera lì, perché là aveva problemi anche con quella là. Cos'è un decoder che dà fastidio? Hanno messo un'altra VHF e c'hanno già l'antenna VHF già con un amplificatore. Hanno aggiunto un'altra VHF e hanno stra-amplificato, hanno messo un amplificatore ancora più grosso e lì ci attaccano questo digitale terrestre a chi dice che non vogliono me. E c'hanno due amplificatori, tra i quali uno è anche potentissimo. E lo sto dicendo, mi sta dando problemi al primo momento. Infatti voglio informare la RAI di questa situazione qua. A Marco venne dimostrato a culo, perché loro non si può trattare. Da che dal giorno che hanno piazzato quegli amplificatori abbiamo anche noi problemi, soprattutto sul primo canale, dal giorno che hanno piazzato questa antenna con questo amplificatore, perché prima non faceva niente. L'amplificatore d'antenna non si può usare, è fuori legge. E probabilmente sarà anche a manetta e quindi manda di subito. Ma ci credi che io ho il QRM sempre alto per colpa di queste cose qua? Io, ma che tu hai un amplificatore d'antenna a dare disturbi, mi sembra strano, ma che non abbiano qualche macchinario invece di prova per il QRM. No, lo sai, per esempio, io ho quelli piccolini, dai, anche se quelli piccolini danno fastidio, vengo da questa parte e funziona, di là invece ti togli anche segnale. Che praticamente ti provoca battimento, va? Esatto, guarda occhio e croce, non lo so, ma dovrebbe essere un amplificatore grosso, cioè un amplificatore bello grosso, e infatti anche alimentatore grosso per alimentare questo colore, ti va di compreso qualcosa che ha già fatto uso. Però ti assicuro che adesso per inizio a prendere informazioni e la cosa me la posso cavare. Mi sono prendere gli yo-yo a vada. Danni è scomparso. Danni. Danni. Scomparso è Natalino. Evidentemente l'abbiamo fatta addormentare con questi discorsi. Già arrabbiato. Evidentemente si è incazzato. No, quello si è addormentato, non si incazza. Ma comunque quello di questi amplificatori è un problema che devo risolvere, perché io non vedo il primo, soprattutto è una scena, guarda, tutta pallina. Chiamatemi a vette. No, stavo cantando la nina nanna. Ora vorrei un bicchiere d'acqua. Che può. Quindi si è perso la parte migliore. E di cosa avete parlato? Stavo dicendo che Antonio, anche prima di avere questa antenna qua, quando c'aveva l'altra, c'aveva l'altra radio ancora addirittura, pensa un po', guai. I problemi sono nati da che questi di vicino hanno messo un'antenna amplificata che è UHF e VHF, più hanno aggiunto un HF e hanno messo un altro amplificatore ancora, bello grosso pure. Da chi hanno messo quella cosa, quest'estate, hanno iniziato a dare a quella parte là a dare dei problemi, ma già quell'antenna a lui gli dava problemi, capito? Allora, se io prendo e vado dalla parte dove è lui e metto anche la mia, pensa un po', con tutta l'apparecchiatura a cavo e quanto c'è, lo fa lo stesso. Perché dal giorno che hanno piazzato quella cosa, è così da disturbo anche la nostra antenna sul primo canale, ci fa l'istituzionata formica, capito? Infatti questa è una cosa già che io devo risolvere con questi qua, o me ne lo tolgono, oppure qualcuno deve interpellare per farglielo togliere. E diciamo la poi come ti ha fatto lui su che ve l'avevo balato in difesa tu a travaglio, che non avevi fatto cavallo. Sì, infatti bisogna che busco il numero del telefono, li chiamo, ma se lo posso controllare, forse muore sotto controllo, e di bene intanto arriva il controllo e gli invita a tu, se non lo cavano gliela si scrive già niente. Perché insomma, cazzo, non dico uno di amplificatore sull'antenna, addirittura due, e uno è bello grosso anche, ha bisogno io già roba a cazzo di 50 dB. È quello, che dopo ce l'hanno in parallelo sicuramente, quindi la potenza è tutti e due. Guarda, non lo volevo dire, ma come ho detto a Natalino, quelli piccolini, che ci abbiamo noi, no? Quelli piccolini, da quella parte là funzionano male, da questa parte qua funzionano bene. Può darsi anche da quello. Ma io posso capire sui televisori per paura che interferiscano anche negli apparati, mi sembra un po' strano. Bravo, già, c'ho sempre il QRM alto io, per forza di queste cose qua. Ma te lo faccio, te lo dimostro, te lo faccio vedere, prendo tutto quanto, la manadata, l'antenna, che cosa, lo scendo giù, ma visto dove c'è il portico lì, la metto lì e non mi fa niente. Non so, basta dirglielo, fate le prove e vi fa vedere la situazione. Io glielo dico, ma perché lo faccio dire dagli altri già, no? Non ci vado io a dire niente, no? Ho finito di parlare con quelli lì. Già adesso prendo il numero di telefono, come abbiamo fatto la via Diaz, a vedere me ne rogavano le macchine. Cioè perché non basta uno, due. Allora io, penso un po', mi hanno fatto fare quest'estate il casino di cambiarmi l'antenna, cambiare la scatola che c'avevo, un casino, sono stato giorno in giorno. E poi tutta la cosa era perché io proprio una settimana prima avevano piazzato questa cosa, da lì ho iniziato io a scoprire che era quello, capito? E poi te lo fa in certe ore del giorno, soprattutto la sera, perché la mattina non ti fa niente, capito? Perché la mattina magari o non hanno questo decoder acceso che riceve, quindi l'antenna magari va più in collo, o non lo so cosa va, né cosa la apparecchiatura vale dentro. Comunque l'ho fatto cazzi che da quel coso fa funzionare male anche l'antenna della televisione. E questo non è, cioè la televisione, il primo canale, è il peggiore di tutti, capito? E se io vado anche a Mac, Emilio, e mi pongo l'antennino muro di quelli portatili, non fa niente, col portatile, con l'antenna portatile, figurati, eppure tutta l'antenna, scatola, cavo, tutto nuovo mi hanno fatto cambiare, e invece non va via niente l'antenna. Ma, e tu chi vede Giambatta? Mi guarda nel casetto qui. Viaggio Giambatta chi ha agito, ma nella secchi, se ho sei fasciato o d'ossidazione, cosa, un po' di anni ce l'aveva, la verità ce l'aveva un 7-8 anni, allora ho detto vabbè, la cambiava, non se ne parla più, invece è cambiata e no, non fa, cioè non era quello lì, capito, portavo la sciarcia, va benissimo che non aveva niente, e invece la vuoi agito, cazzo, allora la direttiva dice, ti sente stranamente, no, due amplificatori. Non è come te ne manco uno, però se chiami la non ti fa controllo dell'amplificatore con cottura. Non ne ho io sull'antenna amplificatore, no. No, no, no. Lo scatto normale io ho. Non ne ho io di amplificatore. Allora tranquillo. Perché poi la RAI chiama le scomposte. Sicuramente, se vede che c'è qualcosa che non va, li chiama le scomposte. Quello che vogliono li facciano, non mi interessa niente. Facciano quello che vogliono, però quello lì è una cosa che infatti stavo rimandando, ma adesso va bassa. Perché è lui, se ti ricordi bene, no? Quante volte te lo diceva, ti ricordi? Lo c'avevo l'altra radio. Adesso mi senti bene, perché sono passato dall'altra parte. La cosa che ti abbassi, io zia aveva un sacco di problemi, ma anche più peggiori di questo di come stanno adesso. Adesso da stasera, stasera pure è una cosa impressionante, non lo so che o più sta andando, questa cosa più sta dando disturbo, non lo so, però sta sempre andando e peggiorando, anche la televisione, qua se tu qua appena che vi racconti ti faccio vedere come la televisione, il primo canale soprattutto. Ma che in digitale? No, in digitale no, in normale stiamo parlando, in normale, e non era così mai già. Beh, e vabbè, se vuoi ovviare i problemi limiti digitale, solo che disturba anche il resto, è normale, che quello gli dà fastidio. No, me ne frega niente a me, se metto il digitale già lo so che non dà disturbo, ma perché mi deve disturbare altre cose? E poi, non ho già compreso, due cose. Io siccome sono a posto, sono in regola e tutto quanto, io l'antennino nel balcone lo posso mettere, perché lo posso mettere, l'antennino dal balcone è autorizzato, e se lui a me mi crea disturbo con l'amplificatore me le deve togliere. Vabbè, io so che dopo come c'è la ripicchi, lo sai come i ricchi. Vabbè, fai i ripicchi, gioco pronto, Vuol dire che la vocabona allora che... Ti mando tutti quanti a YouTube Mai, si piglia, sta sopra e poco buona antenna. Sì, infatti. Però io l'avrei fatto da un bel. Perché a me all'inizio il capocondominio mi stava facendo disturbi. Io lo so Claudio quanto ne ho appena atto io. Il capocondominio mi faceva un bel disturbo. Ha detto che questo è da vedere se l'ha piatto, questo è quell'altro. Io dico, lo posso vedere che l'ha piatto. Ha già buccato la chiave da uno, si è mancato e non becca niente. Infatti, guarda, ti dico una cosa, non sto aspettando altro, anche che quando arriva il momento che faccio fare questo controllo, non aspetto altro proprio, che comincia a girarmi a vero avvio, e allora gli dico, beh, andiamo a vedere un pezzo di carta, ma piazza pure l'antenna. E bella manna buco. E se ti la tocca devi fare la denuncia perché non te ne possono toccare. No, guarda, faccio in modo che tu non ci possa proprio salire nessuno, te lo dico io. Io l'hai presa la vostra, ma se fosse l'hai presa a futtidini che la vostra pure vero. E va bene, non te la prendere più di tanto. Tanto da voi non conviene. Io ho capito come l'antifona di quel padre, l'ha spiegata abbastanza bene. E non riuscite a riuscire a scattare sul tetto perché non so com'è. Però secondo me è l'unico modo per ovviare a tutti i problemi. Ti fa una deviazione, e sul fugante, più con il commutatore. Se devi usare quella danza, solo che tutti un paio di attacchi. Non si può usare tutti e due assieme, no? Diciamo che onde evitare si potrebbe mettere da questa parte lo stesso, ma cioè non è quello, il problema non è quello, il problema di questa situazione qua è anche che mi sta disturbando la televisione, hai capito? Non me la devi disturbare la televisione. Il problema è anche quello, capito? Soprattutto quello. Perché io in mezza maniera ho cercato di farglielo sapere, ma sembra che non gliene frega niente. E allora non mi è rimasto altro del colore. Poi, se mi fanno la ripicca, allora la puntiglia gliela so come va bene io. Allora è un momento buono, non mi pare vero. No, ma poi, ci puoi mettere quella di antenna, la puoi mettere nel palo dell'antenna più in alto possibile, gliela metti e hai fatto di più. Sì, infatti, cioè posso mettere anche, non dico due mantova, no, ma posso mettere anche una di diversa maniera e una mantova, perché non si può fare, si può fare. Ci metti una staffa attaccata al tubo e ci fichi quella di alto, oppure ci metti una mini Grand Prix, insomma. Sì, tu ci cambi che c'è la bocca e mi fate per incarovare il marino. Ma la cosa di Zenni, le cose si fanno, si fanno bene. Allora i nostri due vicini qua che ce l'hanno a un metro di distanza l'uno dall'altro, cosa metti? Le cose ma ci ha fatto bene. E certo che se si fa, si fa bene. No, ma qua, mi dai la televisione, sono guidato la traduccia, incazzato niente, lo è da un anno che sono incazzato, e da un bel tempo che sono incazzato. Solo che ho cercato di farle arrivare la voce, perché io non ci vado neanche a parlarle questo qua. Ma ho cercato di farle arrivare la voce. Sembra che non l'abbiano capita. Allora rimane soltanto quello di farle capire in diversa maniera. Vabbè, ma tali. Sono per esempio adesso, sai cosa c'è? Adesso lo devo che ho attaccato il televisore, ecco, si è abbassato il QRM. Vabbè, ma non c'è di via a staccare tutto. E cosa? Fa stare tutto. Va, meglio non toccarlo mai io. Sì, già c'è il metodo già. Basta legare a buttare una corda nella riga, attacca la macchina e si mette canto bene. Tutta la ringhiera. Io ti fai un gatto, un ferro con un gatto sopra. Cazzo. No, qua. Non è, ripeto, da adesso, ma sono già dal giorno che ho montato tutta l'antenna nuova. Ti faccio un incazzo, ma le pesa che ha giù un gatto duro, che da lui non era visto per me. Guarda, già c'era un torre endemoniato in quei giorni. E io ho lasciato tutto quanto così, ho detto vabbè, vediamo, perché sai, anche per questa antenna che devo piazzare io, non lo faccio, sto facendo il buono e cosa. Però con l'antenna della televisione su cui è cazzato un bene. Loro non guardano, non faccia nessuno. Ma l'antenna del televisore con me sul tetto non li avete messi per nulla. È lo stesso problema già, non hai visto che sono tutte così qua? Cioè, se vi fanno un dispetto così? No, è lo stesso problema perché cioè l'antenna principale, non so, l'hai vista, c'è su, no? È stata piazzata e mai utilizzata. Per quale motivo? Perché non hanno voluto mettere, visto che ognuno abbiamo la luce nostra, perché i signori non vogliono sborsare i soldi per mettere il contattore condominiale, perché non vogliono pagare la luce, perché non vogliono fare niente, perché i soldi se li spendono per altre cose, mi capisci, no? Però per le cose necessarie no, non è possibile. E poi ti ho detto perché se tu vai a fare una cosa che la fai bene, loro magari ti fanno gli spiriti, no, mi è salito lui, hai capito? E quindi potrebbe vivere come primitivi, c'è poco da fare, se non si vogliono, poi si paga anche la luce per l'antenna centralizzata, che c'è l'amplificatore, la centralina, eccetera, eccetera, si paga la luce col balissimo. Già, allora cosa c'è che alcuni sono visto? Sarebbe il contattore condominiale, la luce delle scale, ci abbiamo noi, non ne abbiamo ascensore, c'è la luce condominiale delle scale e sarebbe stata l'alimentazione di quell'amplificatore di antenna, perché c'è tutto montato lì, tutto quanto, hanno montato tutto loro, le cose, l'ente, ha montato tutto, ha fatto tutti gli impianti nuovi. Manca soltanto il contattore, mancava e hanno cominciato, no, non è morto, bomba, che dà, no? noi a di notte non uscimmo mai, ma così è, lascia stare il mondo com'è, allora va. E così la stessa cosa per le antenne televisive, perché magari sali tu, no, e se tu sali ti vedono tutti quanti, non aspettano il momento invece, come ci sono stati i dispetti, no? Ci sono stati dei dispetti, tu non lo sai, ma ci sono stati. E ne faceva tutto, ma fa entrare, non devi dare, ma cosa, come massone, capito? E invece le persone che l'hanno fatto sono ben altre. Bisogna giamba a zona. Beh, ho teso con i danni balle mia. Hanno fatto 25.000 euro di danni mia già. Però ci vivi tu, cavolo, come si fa a distruggere ciò che utilizzi? Ah no, guarda, a me noi ci hanno messo i salvavita nuovi, insomma hanno fatto tutto l'impianto bene, no? Allora io, da che questa cosa nessuno voleva mettere così condominiali, io ho preso, mi sono messo fuori, non le viste le placchette belle, quelle dorate, tutto quanto. Dopo, il giorno dopo che le ho messi, me ne erano stracciate. Tu pensa, no? Cioè io sono andato a fare una cosa bene e loro con gelosia, dispetti, no? Mi hanno trattato tutto quanto. Chi sente? Deve stare calda, se no. Se no sarete assolutamente di culli vostri, di farli questi campi rimanere, ma lasciamoli perdere, va. Che vivano tranquilli, l'importante è che non vengano a rompermi le scarpe. Adesso proprio, guarda, siamo riusciti a mettere anche le cassette della posta finalmente. Se no non ce n'era mai casetta della posta, ma io non ti erano così più un marabuccio. Anche i visi che hanno basso che la ciampano la cassetta, mi destinando, non ti rilasciano nemmeno. Mentre la cassetta della posta, il cazzo c'è, e te la trasfascio, capito? Non vogliono vedere niente di grande, era primitiva proprio, cioè in divina di Gesù. Cosa vuoi fare? L'unica è evacuare, evacuare. Io non ci avrei durato un giorno così. Ehi, guarda, non lo so. Io spero che sia più tardi possibile, ma se un giorno non c'è più denaro, non fa. No, ma come siete voi lì? L'affitto oppure l'avete riscatto? No, me l'hanno, ce l'hanno offerto, me l'hanno offerto. Ma no, non l'ho fatto perché innanzitutto non mi piace. E poi perché sinceramente per il prezzo che me la volevano dare, non la volevano dare, che i prezzi che hanno fatto, stai scherzando, dopo 40 anni mi offri questo appartamento con l'aggiunta, con quello che ti ho già dato nei 40 anni, altre 90.000 euro, ma non tennante. Ma non è truffi a casa di 90.000 euro, no? Quello che ho dato per 40 è tutto un affitto, è stato. È come quando tu hai venuto nella casa, hai preso molto ordinario, è come se stessi pagando un affitto, sia da quando io, per dire, sia da quando ho avuto quello regionale, ho pagato per un paio di anni quello ordinario. Praticamente quello lì non vale, è come se non avessi pagato nulla. Poi ho preso quello regionale e ho cominciato a vivere allora. Ma lascia perdere, guarda, perché mia madre non vuole fare niente, però c'è addirittura una vecchia, pensa, è una legge niente di meno del 1957, che l'inquilino per l'istituto Casa Popolare, no, un inquilino dell'istituto Casa Popolare, dopo 35 anni di vivere dentro quella casa lì, ma cosa ti posso fare? Lo stesso paragone come una macchina che passa l'epoca, che non paga più bollo. In questo caso invece questa legge prevede che deve essere un affitto simbolico, come ce ne sono tantissime lì al monte, al monte l'hanno fatto, ci sono persone che pagano 5 euro. E queste case dovrebbero passare così. Lascia fare che io non so in quanti anni ce la faccio ancora per farmi una casa, ma sono sicuro che riesco a farmela. Ma se un giorno non c'è più mia madre, ti assicuro che no, che le cose mi rimango a poter io con l'avvocato, vai. Non è sempre una battaglia per fare. L'unica cosa sarebbe, perché pure il rimedio lì non ce n'è, capito? Dio, no, la mentalità è quella lì e non si cambia. Vabbè, già, al momento ancora non si può fare. Appena che si può fare, ad esempio non me ne rimango in chimico. No. Qua, te lo sto dicendo, l'inquilino più vicino a me dovrà essere almeno 200 metri. Se a 300 metri è meglio. Ma c'è gente anche civile per fare. Vabbè, il rotto di scatole è sempre i condomini, però c'è gente molto più civile. Anzi, da noi ogni tanto se ne sveglia qualcuno, cambiamo i cancelli, cambiamo questo, ristrutturiamo il palazzo, facciamo questo, sempre più nell'Iran. Sì, quindi fanno i vagliari invece di andare in condominio con altri, fanno i vagliari a ciapparmi più rompiballe, invece di fare una cosa, lì qui non più vicino, cosa vuoi dire, a 200 metri di distanza, sia da una base che dall'altra. E se è presente è pure meglio. Dove è campagna, un luogo isolato, quindi già almeno c'è tranquillo al vivo. No, ma che? Dall'esperienza fatta, guarda, anche quello che ha 320, mai dargli confidenza, e mai facevi di pure. E infatti, come è capitato a coso, Benito, cioè non ha fatto un carabinieri, ha fatto un finanziere, quindi un po' all'antenna, se la guarda dalle da nord, la lascia a corta e guarda, e se lo si la vede, di cui si fanno i disturbi, che non è colpa mia, è colpa la me. E quello, se lui fa le cose come si deve, e mi ha posto in regola l'antenna, io l'avrei messo e non me ne fatti niente di nessuno, cosa, non è visto un problema, se si rientrano dal renotuio. Almeno che non siamo nella stessa base, anche se nella stessa fila di casa, non so se sono all'interno, se in condominio, non lo so, anche se in condominio io non avrei messo lo stesso, basta fare le cose in regola, l'antenna è in regola, e da voi ci verrai di tutto, la cosa di tutto. Ma si disturba, in realtà, chi te la faccio, si può dire che era a te. Vabbè, ma basta fare in modo di non disturbare. Già, tu la disturbi. No, ma gli ho fatto cambiare l'antenna per disturbare. Che la bravo. Appunto, allora, uno basta che faccia le cose. Beh, anch'io, se metto le antenne qua, e nel vicinato c'hanno antenne che li disturba, se la devono cambiare loro l'antenna. Se io la faccio una cosa in regola, a me, la che viene, e cosa mai si fa? Insomma, dell'antenna, cosa vuoi da me? Sfogati adesso che stai scendo bene. Mi avete preso alla sprovvista. Purtroppo è così, è così, non si può, la realtà è questa qua, purtroppo o ci vivi, ci convivi, ma se non riesci a convivere ci devi cambiare, però vabbè, adesso se non è possibile non è che puoi fare salti mortali. Per adesso non è possibile, no. Forse ci siamo sovrammodulati un attimo, hai capito cosa ti ho detto? Adesso che magari hanno spento tutto, è tutto a posto, tutto è tornato normale, hai capito? Ero mezzo abbioccato pure io, ascoltando a voi, come mi hai chiamato sono saltato dal letto. Hai capito già? Sì, yeah. Questo A va. Senti il soffitto per... Ma... Pronto. Chiamato tu, sono saltato dal letto, chi è che chiama? Uia, e che se vuol fa? Non si può fare niente, no. Quei due sono le cose, lo vai con la prepotenza in chi? Oppure è meglio se ne fai a casa tu? Infatti, sono le cose, però io sono calmo. Non voglio fare niente, non per appunto per evitare, però l'evitazione fino a un certo punto. Adesso vediamo un po', va, vediamo un po' perché siamo arrivati all'esagerazione. Infatti io mi ero sempre detto il bene di più questa cosa. Adesso stavo appunto guardando il primo canale. E sta sempre più aumentando più schifo fa. Che cosa fa schifo? Il primo canale, la televisione. Ma non saranno loro che stanno facendo qualche prova, no? Qualche prova? No, ma per esempio no, io anche domani mattina ho provato a attaccare, poi quando arriva verso la una o verso mezzogiorno e mezza, così, che deve essere che si mettono a guardare in televisione, a accendere tutto grosso, allora iniziano i problemi. E poi tutta la sera fino a quest'ora qua, poi dopo quest'ora finiti i problemi. Che lo sta? A chi andare a cucarsi, fai tutto, e non ha più problemi. Guarda, se tu lo chiedi adesso, si è abbassato anche il QRM, tanto il QRM si è abbassato. È a zero proprio. Quindi adesso è muto, muto di stazionario pure. Guarda, se mi credi già, io dico una cosa. Io non voglio fare niente, lo faccio anche per lui. Però io per il carattere tuo, io guarda, lo sai che figlio da sopra è arrabbiato, cioè dico anche parolacce, non mi interessa niente di nessuno, hai capito? A me. Oh? Hai capito? Sì. Ma mi sto bloccando, la piccola vita mi sta mancando. Vabbè, io vi saluto. Speriamo che si risolva questo problema. Niente di più vi posso dire, vabbè. Ci sentiamo, buonas noches. Mi hai tolto le parole da bocca, amica. Non te lo stavo per dire io, perché stanotte mi sta pizzicando un po', e quindi penso che sia il momento buono. Ciao, buonanotte, ci risentiamo tutte le prossimine. Ok, ciao, buonanotte. Ci risentiamo, va. Accontentiamoci di quello che c'è, va. Buonanotte. Buonanotte anche a te, Natalino e a Luca, se siete all'ascolto.